Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Abbiamo dedicato la settimana scorsa alla seconda rivoluzione quantistica e alle sue promesse. E come abbiamo spiegato, il campo delle telecomunicazioni sarà forse il primo a vedere applicate su larga scala queste tecnologie quantistiche di seconda generazione, per via anche delle immediate ricadute nel campo della sicurezza informatica. E d'altronde le prime infrastrutture attrezzate per le comunicazioni quantistiche, magari su breve distanza e con tutta una serie di limiti, ma insomma stanno nascendo in vari paesi, e in Italia c'è l'Italian Quantum Backbone. Per parlarne torniamo all'INRIM, l'Istituto Nazionale di Metrologia, da Davide Calonico, esperto di orologi atomici e coordinatore dell'Italian Quantum Backbone. Buonasera Calonico, bentornato. Buonasera a tutti e bentrovati. Allora, senta, che cos'è l'Italian Quantum Backbone e che cosa già oggi ci si fa? Allora, l'Italian Quantum Backbone è un'infrastruttura in fibra ottica che sarà lunga circa 1700 km e che in fase di completamento collega in questo momento Torino con Bologna, Firenze e Roma, e entro l'anno collegherà anche Napoli e Matera, e dalla parte nord invece colleghiamo Torino con il confine francese per guardare verso l'Europa. È una rete su cui già oggi mettiamo un segnale di tempo e frequenza, quindi distribuiamo un segnale di tempo e frequenza. Un segnale orario, diciamo, come un po' quel beep, no, che siamo abituati a sentire dalla televisione, una volta almeno si faceva, però con una precisione straordinariamente superiore. Assolutamente sì, è un segnale orario che è direttamente legato ai nostri migliori orologi atomici e un po' configura per chi lo riceve una situazione in cui è l'equivalente di avere lo stesso orologio, che possa essere una fontana atomica o un orologio ottico, nella stazza accanto, e invece magari è appunto a 1000 km di distanza a Torino. E questo è quello che già stiamo facendo e stiamo potenziando e stiamo iniziando. A chi distribuite questo segnale orario? A molti centri di ricerca che hanno bisogno per fare ricerca, no? Per esempio, alcuni esperimenti hanno bisogno di misurare in modo molto preciso il tempo. Ma ci sono già anche delle applicazioni più o meno, diciamo, industriali, se così vogliamo dire. Le nostre collaborazioni sono nate con gli istituti di ricerca, quindi con l'Istituto Nazionale di Astrofisica, con il LENS di Firenze, il CNR e l'Agenzia Spaziale, ma una volta testata la robustezza della tecnica, adesso guardiamo anche all'industria. In particolare c'è già un collegamento in fibra ottico dedicato tra Torino e il distretto finanziario di Milano per dare il tempo esatto alle transazioni finanziarie, come chiede di fare l'Europa dal prossimo anno. Quindi la comunità ha aumentato molto le richieste sulla precisione della datazione delle transazioni finanziarie, e adesso con l'Agenzia Spaziale Italiana stiamo portando un tempo esatto a livello sub nanosecondo alla centrale di controllo di terra del sistema di navigazione satellitare Galileo, perché, come adesso si sa abbastanza, i sistemi come il GPS o il Galileo funzionano grazie agli orologi atomici a bordo dei satelliti, ma questi parlano con degli orologi che stanno in una centrale di controllo a terra. Comunque, diciamo che il tema è che per avere una precisa geolocalizzazione bisogna sapere l'orario esatto, per ragioni che adesso non riusciamo a spiegare, ma insomma. Sì, l'idea è proprio quella di offrire un potenziamento della geolocalizzazione tramite un potenziamento degli orologi sia a terra e poi quindi di conseguenza anche in volo. Ecco, Calonico diceva che l'infrastruttura entro l'anno sarà completa. Che cosa avete cominciato a sperimentare? Pensate di sviluppare in futuro anche con un'infrastruttura completa a questo punto? Noi vorremmo portare appunto sul campo reale quella che è la seconda rivoluzione quantistica, cioè cominciare a vedere come si può innestare una comunicazione quantistica efficace. Quindi abbiamo cominciato a vedere quella che è la distribuzione di chiavi quantistiche per la crittografia. Ci sono già degli esperimenti su piccole scale sul territorio. Noi vorremmo passare invece a delle distanze molto più lunghe, quindi tra città e poi lungo tutta la penisola, quindi centinaia di chilometri. Quindi abilitare questo scambio di chiavi, che è il fondamento aggiornamento della sicurezza informatica tra soggetti che sono distanti magari centinaia di chilometri. Questo è un primo direzione di lavoro, benissimo. Esattamente, e poi da lì chiaramente immaginiamo un internet quantistico, una comunicazione quantistica che si poggerà però su dei dispositivi che ancora non sono appunto e quindi non sono ancora pronti per essere messi sul territorio, sul campo, ma insomma chiamati in Italia, ripetitori quantistici, giusto? I ripetitori quantistici, su cui anche in Italia c'è una ricerca attiva e quindi insomma noi vorremmo come istituto di meteorologia cercare di portare poi, di trasferire nel più breve tempo possibile quello che si riesce a fare in laboratorio nel mondo reale. Un'ultima curiosità, la fibra ottica con cui è fatto l'Italian Quantum Backbone è una fibra ottica speciale? Assolutamente no, è una fibra normalissima, è un po' dedicata a questi utilizzi, ma la fibra è quella delle telecomunicazioni e anzi in alcuni pezzi possiamo far convivere il traffico dati con il nostro canale dedicato in questo momento al tempo e alla frequenza. Però la fibra non abbiamo dovuto posare fibra particolare, no. Va bene, grazie, grazie Calonico. Grazie a voi e buona serata. Anche per questa sera abbiamo concluso, ci diamo appuntamento come sempre a lunedì. Buona serata, buon fine settimana.